Siamo in collegamento con Alessandro Messina, che sabato scorso a Bologna ha moderato uno degli incontri conclusivi della giornata nazionale della banca etica, incontro che ha visto come protagonisti la banca etica e la banca intesa, confronto per un modello di credito non violento. L'oggetto della quarta giornata nazionale della finanza etica, che si è svolta a Bologna, era la finanza etica come occasione di pacificazione. E questo ovviamente lo si è inteso in tanti punti di vista diversi. La giornata ha visto diversi approcci al tema, e la tavola rotonda di cui stiamo parlando adesso è stato il momento conclusivo. Prima si sono presentate diverse esperienze, sia italiane sia internazionali, di microcredito, di finanza etica, comunque di finanza appunto che cerca di risolvere anche i conflitti sociali. E la tavola rotonda voleva essere anche un'occasione importante di confronto fra Corrado Passera, amministratore delegato della banca più grande d'Italia, che è Banca Intesa, che tra l'altro è al centro di una campagna da parte della società civile che chiede a questa banca diversi impegni, e Banca Etica, che come sappiamo è il primo istituto bancario italiano a dedicarsi alla finanza etica, che nasce dai principi della finanza etica, che nel 99 di fatto ha cominciato a lavorare ispirandosi a questi principi. Come Banca Intesa ha reagito a queste richieste provenienti da Banca Etica? No, diciamo così, che c'è una campagna che si chiama Banca Intesa, che in realtà è promossa da molte associazioni differenti, a cui aderiscono Rete Lilliput, la campagna per la riforma della Banca Mondiale, oltre che ovviamente l'Associazione Finanza Etica e tanti altri soggetti. Questa campagna chiede alla più grande banca italiana di mandare dei segnali soprattutto rispetto a certe questioni. La prima è stata quella degli armamenti. Banca Intesa figura tuttora fra le banche che hanno coinvolgimento in finanziamento all'export di armi, e quest'anno il Consiglio di amministrazione di Banca Intesa ha annunciato che progressivamente uscirà da questo tipo di settore. Corrado Passera l'ha riaffermato durante la giornata di sabato, e quindi questa sicuramente è una buona notizia. Vi sono però tante altre questioni importanti. La prima sicuramente è quella che la società civile ha posto rispetto ad alcune operazioni che Banca Intesa sta facendo in alcuni paesi dell'est Europa, rispetto alla costruzione di un oleodotto che viene fatto in violazione di molte regole e principi che ormai vengono considerati di base per rispettare ambiente e tessuto sociale nel caso in cui vengano realizzate queste grandi opere. E Banca Intesa ha in qualche modo riconosciuto anche sabato con Corrado Passera che l'operazione è stata affrontata con eccessiva leggerezza, e in un certo senso ha quasi addebitato alla Banca Mondiale il loro coinvolgimento, dicendo: se non ci fosse stato il timbro della Banca Mondiale forse non l'avremmo fatta neanche noi. E quindi anche questo, come dire, sicuramente è un percorso di sensibilizzazione nei confronti di questa grande banca. Vi sono però poi anche questioni più complesse, come per esempio la questione dei paradisi fiscali, che sono un serio problema sia perché lì dove diventano paradisi legali, diciamo così, permettono il riciclaggio del denaro sporco, e sia ovviamente lì dove sottraggono risorse, anche in senso di proprio risorse pubbliche, per la eventuale tassazione che viene elusa, e quindi risorse che dovrebbero andare alla collettività. E anche su quello, diciamo, la società civile chiede alle grandi banche e a Banca Intesa di prendere delle posizioni più chiare e anche più responsabili. L'altra questione che è emersa in generale è stata quella di quale può essere il ruolo di una banca, di una grande banca, in un paese come l'Italia, che vede crescente il potere di questi soggetti, che hanno sempre, come dire, di più la possibilità di decretare o meno l'inserimento di persone, piccole imprese, attività artigianali, eccetera, il loro sviluppo, l'inserimento nel mercato del lavoro, eccetera, eccetera, perché il problema dell'accesso al credito, il problema della definizione di chi sono i soggetti cosiddetti bancabili, e anche, se vogliamo, il recente problema, almeno recentemente esploso, quello dell'anatocismo, cioè il fatto che per tanti anni le banche hanno applicato gli interessi sugli interessi. Su questo purtroppo Passera non ha dato delle risposte proprio positive, perché si è difeso dicendo che l'anatocismo, appunto questo fenomeno del calcolo dell'interesse sull'interesse, è vero che la Cassazione ora lo ha definito illegale, ma fino ad allora era legale e quindi le banche non hanno fatto niente di male. Ecco, noi crediamo che ovviamente se si vuole parlare di finanza responsabile, di finanza etica o come vogliamo, insomma, bisogna quantomeno darsi dei principi che siano da più stringenti rispetto alla legislazione. Non è un caso forse che Banca Etica, quando è nata, anche se per la legge era possibile, ha deciso fin da subito di non applicare gli interessi sugli interessi.